America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. And the Oscar goes to Hugo, Dante Ferretti, production designer, Francesca Lo Chabeo, set decoration. Beh, un momento magico, come avete sentito, il momento in cui aprono le buste, dicono chi vince il premio Oscar e quello che avete sentito è l'attore Tom Hanks che dice ha vinto Dante Ferretti. Era il 2012, il film Hugo, e vi parlo di questo momento perché al MoMA c'è l'allestimento di una retrospettiva dedicata appunto a questo grande scenografo italiano che ha vinto ben 3 premi Oscar, una retrospettiva, vi dicevo, al MoMA. Bene, Dante Ferretti è qui con me ai microfoni di America 24. Buongiorno Ferretti. Buongiorno, buongiorno. Allora, il MoMA, vale più un premio Oscar o una mostra al MoMA? L'Oscar ovviamente è un premio che ti dà una grandissima soddisfazione. Il MoMA è il museo più importante che c'è nel mondo dell'arte contemporanea, per cui il fatto che mi hanno dato queste 3 stanze, hanno messo dentro una parte del mio lavoro, voglio dire, insomma, mi ha dato molto soddisfazione, anche perché mi dicono che ha avuto molto successo. Questo sì, tant'è vero che è venuto, e io ero lì quella sera, anche il nostro Presidente del Consiglio. Insomma, c'è stata una grande festa. Ho visto che giravate insieme a vedere questa mostra, che è costruita come un labirinto, no? Ci sono delle tele dove... Ecco, com'è nata questa idea? Ma ho fatto a Roma una volta per Fellini 3 anni fa una mostra molto grande, e l'ho intitolata Il labirinto Fellini, perché che cosa avevo fatto oltre la ricostruzione di certi e alcuni elementi dei set che avevo fatto, ho fatto soprattutto in un'enorme stanza, ho messo qualcosa come quasi 10 schermi dove si proiettavano tutti quanti i film suoi, però si vedeva sia davanti che di dietro perché erano trasparenti, e uno si vedeva uno sopra l'altro, cioè era proprio un labirinto. Poi soprattutto c'era anche la musica sotto, le parole, le cose, per cui era qualcosa che ti dava una grande emozione camminando in mezzo appunto a questo labirinto. Allora sono venuto, mi ricordo quando sono venuti i curatori, poi hanno voluto vedere questa mostra, allora insomma, gli è piaciuto molto questo labirinto, ha detto ma non lo possiamo rifare anche noi? Right after my father died, I'd come up here a lot. I'd imagine the whole world was one big machine. Machines never come with any extra parts, you know. They always come with the exact amount they need. Ecco, vi ho fatto ascoltare una scena dell'orologio di Hugo. C'è questo splendido orologio con gli ingranaggi, dove ci si entra, dove si vive. Addirittura, e vi ho riproposto questa scena perché non c'è soltanto il labirinto Ferretti, è vero, al MoMA, ma ci sono anche delle opere, delle scenografie che lei ha costruito. C'è per esempio l'orologio di Hugo. Ecco, come gli è venuta l'idea di costruire questo orologio? Per Hugo veramente abbiamo ricostruito tutto, da stazioni, i treni, gli orologi, le cose abbiamo rifatto, ed è l'orologio che è il primo che si vede quando si entra per la prima volta dentro la stazione, sul lobby, e c'è questa inquadratura verso l'orologio dove si vede, tra l'altro, proprio nel numero 4 dell'orologio si vede il viso di Hugo. Allora, volete sapere il perché di questo viaggio? È un funerale. Ma come un funerale, direte voi? Eh sì, signore e signori, è un funerale. Tutti questi personaggi famosi sono qui per seguire un funerale. È stata l'ultima volontà esplicitamente espressa nel suo testamento. Ecco, un'altra scena di un altro grande film, La nave va, di Fellini, 1983. Abbiamo fatto un balzo indietro di 30 anni. Fellini, Martin Scorsese con Hugo. Ecco, com'è che è riuscito a trasformare in scenografia quello che Fellini le chiedeva? Perché non doveva essere un personaggio facile. No, non era un personaggio facile. Poi soprattutto lui gli piaceva ricreare il cinema, ma non reale, cioè voglio dire, infatti il mare era un mare di plastica, fatto di cose che si muoveva, lo muovevamo noi con i ventilatori, con tutto un sistema messo sotto la plastica che muoveva tutto questo. Tra l'altro, di tutti questi film di cui si parla, poi si vedono in realtà proiettati nel labirinto, perché infatti ci sono tutti questi film. C'è il film, per esempio, appunto della nave va, c'è un paio di bozzetti, però c'è il film proiettato. Una domanda così un po' personale, magari un po' difficile, ma ce n'è uno di questi film a cui lei è più particolarmente attaccato, per qualunque ragione? Ugo proprio mi è piaciuto moltissimo farlo. Poi era la prima volta che si è fatto un film, che io ho fatto un film insieme, non solo io, tutto il gruppo, innanzitutto Scorsese, film in 3D. Poi l'altro a cui sono molto attaccato è L'età dell'innocenza, perché è stato il primo film che ho fatto con Martin. Ed eccoci alla canzone del giorno, Taylor Swift, 23 anni, la ragazza acqua e sapone, carina, molto bellina, che ha conquistato l'America cantando, raccontando storie romantiche, l'importanza di essere se stessi, suonerà alla prossima sfilata di Victoria's Secret. Beh, sapete cos'è Victoria's Secret, il brand di Intimo, sarà trasmessa da CBS il 10 dicembre, come dire, mischiare il diavolo con l'acqua santa. Di Taylor Swift, Everything Has Changed. All I knew this morning when I woke is I know something now I didn't before. And all I've seen since 18 hours ago is green eyes and freckles and your smile in the back of my mind making me feel right. I just wanna know, you better know, you better know. Da New York è tutto, Simone, ti ripasso la linea. Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.